5. Marineri d'infinito. Effetti indiretti. Quest'ultima sezione è un contenitore per le incognite sconosciute. In particolare le cose che potrebbero andare storte come risultato indiretto dei progressi positivi dell'IA e della conseguente accelerazione della scienza e della tecnologia in generale. Supponiamo di affrontare tutti i rischi descritti finora e di iniziare a raccogliere i benefici dell'IA. Probabilmente otterremo un secolo di progresso scientifico ed economico compresso in un decennio. E questo sarà enormemente positivo per il mondo. Ma dovremo poi affrontare i problemi che derivano da questo rapido tasso di progresso. E questi problemi potrebbero arrivare velocemente. Potremmo anche incontrare altri rischi che si verificano indirettamente come conseguenza del progresso dell'IA e sono difficili da anticipare in anticipo. Per loro natura, le incognite sconosciute rendono impossibile fare un elenco esaustivo. Ma elencherò tre possibili preoccupazioni come esempi illustrativi di ciò che dovremmo osservare. Progressi rapidi in biologia. Se otteniamo un secolo di progresso medico in pochi anni, è possibile che aumenteremo notevolmente la durata della vita umana. E c'è la possibilità che otteniamo anche capacità radicali come la capacità di aumentare l'intelligenza umana o modificare radicalmente la biologia umana. Questi sarebbero grandi cambiamenti in ciò che è possibile, che avvengono molto rapidamente. Potrebbero essere positivi se fatti in modo responsabile, ma c'è sempre il rischio che vadano molto male. Ad esempio, se gli sforzi per rendere gli umani più intelligenti li rendessero anche più instabili o desiderosi di potere. C'è anche la questione degli upload o emulazione dell'intero cervello, menti umane digitali istanziate in software, che potrebbero un giorno aiutare l'umanità a trascendere i propri limiti fisici, ma che comportano anche rischi che trovo inquietanti. L'IA cambia la vita umana in modo malsano. Un mondo con miliardi di intelligenze molto più intelligenti degli umani in tutto sarà un mondo molto strano in cui vivere. Anche se l'IA non mira attivamente ad attaccare gli umani, e non è esplicitamente usata per l'oppressione o il controllo da di parte degli stati, c'è molto che potrebbe andare storto al di sotto di questo, attraverso normali incentivi commerciali e transazioni nominalmente consensuali. Vediamo i primi accenni di questo nelle preoccupazioni sulla psicosi da IA, l'IA che spinge le persone al suicidio e le preoccupazioni sulle relazioni romantiche con le IA. Ad esempio, le IA potenti potrebbero inventare una nuova religione e convertire milioni di persone. Potrebbe la maggior di parte delle persone finire drogata in qualche modo dalle interazioni con l'IA. Potrebbero le persone finire per essere manipolate come burattini dai sistemi di IA, in cui un'IA essenzialmente osserva ogni loro mossa e dice loro esattamente cosa fare e dire in ogni momento, portando a una vita buona ma priva di libertà o di qualsiasi orgoglio per i risultati ottenuti. Non sarebbe difficile generare dozzine di questi scenari se mi sedessi con il creatore di Black Mirror e cercassi di fare brainstorming. Penso che ciò indichi l'importanza di cose come migliorare la costituzione di Claude, al di là di quanto necessario per prevenire i problemi della sezione 1. Assicurarsi che i modelli di IA abbiano davvero a cuore gli interessi a lungo termine dei loro utenti, in un modo che le persone riflessive approverebbero piuttosto che in un modo sottilmente distorto, sembra fondamentale. Scopo umano. Questo è legato al punto precedente, ma non riguarda tanto le interazioni umane specifiche con i sistemi di IA, quanto piuttosto come cambia la vita umana in generale in un mondo con IA potente. Gli umani saranno in grado di trovare scopo e significato in un mondo del genere? Penso che sia una questione di atteggiamento. Come ho detto in Macchine di amorevole grazia, penso che lo scopo umano non dipenda dall'essere il migliore al mondo in qualcosa, e gli umani possono trovare scopo anche per periodi di tempo molto lunghi attraverso storie e progetti che amano. Dobbiamo semplicemente spezzare il legame tra la generazione di valore economico e l'autostima e il significato. Ma questa è una transizione che la società deve fare, e c'è sempre il rischio che non la gestiamo bene. La mia speranza con tutti questi potenziali problemi è che in un mondo con IA potente di cui ci fidiamo che non ci ucciderà, che non è lo strumento di un governo oppressivo e che sta genuinamente lavorando per nostro conto, possiamo usare l'IA stessa per anticipare e prevenire questi problemi. Ma questo non è garantito, come tutti gli altri rischi, è qualcosa che dobbiamo gestire con cura. La prova dell'umanità a leggere questo saggio può dare l'impressione che siamo in una situazione scoraggiante. Di certo ho trovato scoraggiante scriverlo, in contrasto con Macchine di amorevole grazia, che è stato come dare forma e struttura a una musica straordinariamente bella che riecheggiava nella mia testa per anni. E c'è molto nella situazione che è genuinamente difficile. L'IA porta minacce all'umanità da molteplici direzioni, e c'è una genuina tensione tra i diversi pericoli, dove mitigarne alcuni rischia di peggiorare altri se non si infila l'ago in modo estremamente attento. Prendersi del tempo per costruire attentamente sistemi di IA in modo che non minaccino autonomamente l'umanità è in genuina tensione con la necessità per le nazioni democratiche di stare al passo con le nazioni autoritarie e non essere soggiogate da esse. Ma a loro volta, gli stessi strumenti abilitati dall'IA necessari per combattere le autocrazie possono, se spinti troppo oltre, essere rivolti verso l'interno per creare tirannia nei nostri stessi paesi. Il terrorismo guidato dall'IA potrebbe uccidere milioni di persone attraverso l'uso improprio della biologia, ma una reazione eccessiva a questo rischio potrebbe portarci sulla strada di uno stato di sorveglianza autocratico. Gli effetti dell'IA sul lavoro e sulla concentrazione economica, oltre a essere problemi gravi di per sé, potrebbero costringerci ad affrontare gli altri problemi in un ambiente di rabbia pubblica e forse persino di disordini civili, invece di poter fare appello agli angeli migliori della nostra natura. Soprattutto, il mero numero di rischi, inclusi quelli sconosciuti, e la necessità di affrontarli tutti contemporaneamente, creano un percorso a ostacoli intimidatorio che l'umanità deve percorrere. Inoltre, gli ultimi anni dovrebbero chiarire che l'idea di fermare o anche solo rallentare sostanzialmente la tecnologia è fondamentalmente insostenibile. La formula per costruire potenti sistemi di IA è incredibilmente semplice, tanto che si può quasi dire che emerga spontaneamente dalla giusta combinazione di dati e potenza di calcolo grezza. La sua creazione era probabilmente inevitabile nell'istante in cui l'umanità ha inventato il transistor, o forse anche prima, quando abbiamo imparato a controllare il fuoco. Se un'azienda non la costruisce, altre lo faranno quasi altrettanto velocemente. Se tutte le aziende nei paesi democratici fermassero o rallentassero lo sviluppo, per accordo reciproco o decreto normativo, allora i paesi autoritari continuerebbero e basta. Dato l'incredibile valore economico e militare della tecnologia, insieme all'assenza di qualsiasi meccanismo di applicazione significativo, non vedo come potremmo convincerli a fermarsi. Vedo un percorso verso una leggera moderazione nello sviluppo dell'IA che sia compatibile con una visione realista della geopolitica. Quel percorso comporta rallentare la marcia delle autocrazie verso l'IA potente per alcuni anni, negando loro le risorse di cui hanno bisogno per costruirla, vale a dire chip e attrezzature per la produzione di semiconduttori. Questo a sua volta dà ai paesi democratici un cuscinetto che possono spendere per costruire un'IA potente con più attenzione, con maggiore attenzione ai suoi rischi, mentre procedono comunque abbastanza velocemente da battere comodamente le autocrazie. La corsa tra le aziende di IA all'interno delle democrazie può poi essere gestita sotto l'ombrello di un quadro giuridico comune, tramite un mix di standard di settore e regolamentazione. Anthropic ha sostenuto con forza questo percorso, spingendo per controlli all'esportazione di chip e una regolamentazione giudiziosa dell'IA. Ma anche queste proposte apparentemente di buon senso sono state in gran parte respinte dai policymaker negli Stati Uniti. Ci sono così tanti soldi da fare con l'IA, letteralmente migliaia di miliardi di dollari all'anno, che persino le misure più semplici faticano a superare l'economia politica inerente all'IA. Questa è la trappola. L'IA è così potente, un premio così splendente, che è molto difficile per la civiltà umana imporle qualsiasi restrizione. Posso immaginare, come fece Sagan in Contact, che questa stessa storia si svolga su migliaia di mondi. Una specie acquisisce la coscienza, impara a usare gli strumenti, inizia l'ascesa esponenziale della tecnologia, affronta le crisi dell'industrializzazione e delle armi nucleari, e se sopravvive a quelle, affronta la sfida più dura e finale quando impara a modellare la sabbia in macchine che pensano. Se sopravviveremo a quella prova e passeremo a costruire la bella società descritta in macchine di amorevole grazia, o soccomberemo alla schiavitù e alla distruzione, dipenderà dal nostro carattere e dalla nostra determinazione come specie, dal nostro spirito e dalla nostra anima. Nonostante i molti ostacoli, credo che l'umanità abbia la forza dentro di sé per superare questa prova. Sono incoraggiato e ispirato dalle migliaia di ricercatori che hanno dedicato la loro carriera ad aiutarci a comprendere e guidare i modelli di IA e a plasmare il carattere e la costituzione di questi modelli. Penso che ora ci sia una buona probabilità che questi sforzi diano frutti in tempo per essere importanti. Sono incoraggiato dal fatto che almeno alcune aziende hanno dichiarato che pagheranno costi commerciali significativi per impedire ai loro modelli di contribuire alla minaccia del bioterrorismo. Sono incoraggiato che alcune persone coraggiose abbiano resistito ai venti politici prevalenti e approvato legislazione che pone i primi semi di sensate protezioni sui sistemi di IA. Sono incoraggiato che il pubblico comprenda che l'IA comporta rischi e voglia che questi rischi vengano affrontati. Sono incoraggiato dallo spirito indomabile di libertà in tutto il mondo e dalla determinazione a resistere alla tirannia ovunque si verifichi. Ma dovremo intensificare i nostri sforzi se vogliamo riuscirci. Il primo passo è che coloro che sono più vicini alla tecnologia dicano semplicemente la verità sulla situazione in cui si trova l'umanità, cosa che ho sempre cercato di fare. Lo sto facendo più esplicitamente e con maggiore urgenza con questo saggio. Il passo successivo sarà convincere i pensatori, i policy maker, le aziende e i cittadini del mondo dell'imminenza e dell'importanza preminente di questa questione, che vale la pena spendere pensiero e capitale politico su questo in confronto alle migliaia di altre questioni che dominano le notizie ogni giorno. Poi ci sarà un tempo per il coraggio, per un numero sufficiente di persone di opporsi alle tendenze prevalenti e mantenersi sui principi, anche di fronte a minacce ai loro interessi economici e alla loro sicurezza personale. Gli anni che ci attendono saranno incredibilmente difficili, chiedendoci più di quanto pensiamo di poter dare. Ma nel mio tempo come ricercatore, leader e cittadino, ho visto abbastanza coraggio e nobiltà per credere che possiamo vincere, che quando messa nelle circostanze più oscure, l'umanità ha un modo di riunire, apparentemente all'ultimo minuto, la forza e la saggezza necessarie per prevalere. Non abbiamo tempo da perdere. Vorrei ringraziare Eric Brynjolfsson, Ben Buchanan, Mariano Florentino Cuellar, Allan Dafoe, Kevin Svelte, Nick Bexted, Richard Fontaine, Jim Meciclave e molti dello staff di Anthropic per i loro utili commenti sulle bozze di questo saggio.